Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Il piano Volpe Nera, che scatterà all'ora X, esattamente fra un'ora e 55 minuti. Un'ora e 54. Grazie. Si articola in due fasi. Fase A, incursioni compiute da piccoli gruppi scelti dirette ai gangli vitali, Rai TV, aeroporti, linee di telecomunicazione. L'incursione numero uno sarà attuata col nome convenzionale di Falcone. Io, con un pugno di miei barracuda spiucazzoni, avute le coordinate dal centro clandestino di Grotta Celata, ci paracaduteremo in dermare, nei frasci di Fiumicino. E approfittando del fattore sorpresa, in 14 minuti e 30 secondi vi impadronirete agevolmente dell'aeroporto Leonardo da Vinci e lancerete un razzo giallo. Giuseppe Sanzon, è giusto che ci abituiamo? Questo siamo noi, questi eravamo, in che anni eravamo? Qui siamo negli anni 70, nel 73 l'Italia cercava di rielaborare in maniera farsesca l'Alan Ford. Il colpo borghese è avvenuto 3 anni prima, quindi Monicelli, con Vogliamo i colonnelli, dipinge questi cialtronissimi congiurati, Camillo Milli appunto che snocciola come tutto il piano Volpe Nera, c'è il colonnello Automaticos proveniente dalla Grecia, c'è l'impossibilità di vivere la tragedia, c'è sempre la farsa dietro l'angolo che occhieggia. E di questo oggi parliamo, l'impossibilità di vivere la tragedia. Stiamo vivendo un momento di tensione, siamo pronti, come avete sentito qualche giorno fa, a scendere tutti armati per difenderci contro un nemico di cui si conoscono poco anche i connotati esteriori. Beh, vediamo come la commedia italiana negli anni passati ha dimostrato che noi in realtà siamo sempre pronti a scendere, sempre pronti a difenderci da ogni pericolo, interno o esterno al nostro paese. A tra poco. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Melog, Cronache Meridiane. Vedete, con il mio piano l'impiego di uomini e mezzi è limitato, le perdite ottenute e la presa di potere sicura al 100%, au 100%. Dans tous les cas, l'important c'est l'occupation de la télévision. Vous avez compris? Mais nous n'avons pas TV. La radio. Ah, mon cher monsieur, attuali governanti demagogisti del nostro paese hanno costruito case e ospedali per gente che ha mai conosciuto tutto questo. Così non abbiamo ancora né radio né TV. Non mi parli di queste cose perché mi viene male al cuore. Il telefono ce l'avete? Pochi. Sufficienti. Basta fare una piccola variazione al mio progetto e trasmettere il proclama della giunta militare direttamente per telefono ai vari utenti. Chiaro? Questo era Tognazzi, che una volta fallito il golpe in Italia va a rivolgersi ai paesi del terzo mondo proponendo un pacchetto di golpe, chiavi in mano. Beh, ci sono molte similitudini con quello di cui oggi leggiamo, di possibilità di eversione standardizzata come fosse un franchising, l'abbiamo detto anche questo in trasmissione, il terrorismo proposto come un pacchetto di franchising. Erano anni in cui ci potevamo permettere di ridere anche su qualcosa che con la memoria del tempo in realtà allora non faceva molto ridere. Erano anni in cui in Italia esplodevano bombe, saltavano treni, venivano uccise persone, c'erano sparatorie comunque realmente nelle nostre città. Oggi ancora non ci sono stati spari per strada, non ci sono stati morti per strada, perlomeno nei nostri paesi non sono esplose bombe, ma noi che abbiamo attraversato quel periodo abbiamo visto che in realtà l'abbiamo passata una stagione nera, e il cinema italiano l'ha raccontata, bene o male l'ha raccontata. Le testimonianze di quell'epoca attraverso il cinema sono quelle che questa mattina con Giuseppe Sanzon cerchiamo di tracciare. Andiamo avanti con il prossimo passaggio e Sanzon ci aiuterà a dipanare questa matassa della percezione attraverso il cinema, che è già una mediazione ulteriore rispetto a quelle che erano le cronache immediate, le riflessioni saggistiche. Il cinema comunque congelava alcuni momenti attraverso la mediazione comunque di qualcuno che li vedeva con un suo particolare occhio. Da domani il circolo è chiuso. Che vuol dire chiuso? Vuol dire chiuso. Sigilli alla porta. Vuol dire che l'anonima anticrimine chiude i battenti. Bertone, non dimentichi nemmeno per un momento che questo è un circolo molto particolare. È un circolo di ex poliziotti. Alt! Non confondiamo la polizia con questi 4 sparafucile che lei si porta appresso. Anzi, mi tolga una curiosità. Lo fanno per fanatismo o per denaro? Perché ho fatto un'inchiesta sui contribuenti del suo circolo. Sono decine di milioni l'anno. Abbiamo degli amici. E che amici? L'alta banca, la grande industria, i grandi burocrati e persino qualche pezzo grosso del Vaticano. L'anonima anticrimine non è che un primo passo verso la scalata al potere. Primo stadio, associazione a delinquere. Secondo stadio, colpo di Stato. Terzo stadio, ritorno alla dittatura. Lei mi dovrebbe dare dei fatti. Gliene cito subito uno. È singolare, è allo stesso tempo sorprendente, che nel 1972 si faceva un elenco dei cosiddetti poteri forti, di quelli che sembra che ancora oggi nelle vulgate manovrino tutti i fenomeni in chiave internazionale, e oggi allora in chiave più locale sono esattamente le stesse: la grande industria, il Vaticano, l'economia e via dicendo. Qua di cosa stiamo parlando? Qual era il pericolo innanzitutto allora? C'era il pericolo vario o presunto di eversioni da varie parti. Non c'era più ordine, mancava l'ordine in Italia. Si profilava la strategia della, quella che è stata chiamata strategia della tensione, ed è curioso come un film come La polizia ringrazia del 72, fatto da un regista geniale ma dedito a film leggeri, brillanti come Steno, come il padre di Manzina, si dedichi con questo è l'archetipo del poliziottesco, perché c'è il commissario Bertone, anche questo nome evocativo, che la singolarità, già allora c'era un Bertone al centro dell'immaginario di tutti i mondi nascosti, occulti, possibili e immaginati. Però questo è buono, e ha questo parrucchino, anche l'altro è buono, sì, sono tutti e due buoni, e ha questo parrucchino grigio topo, questo baffetto Enrico Maria Salerno, con questo vocione suo solido dell'uomo onesto che si trova davanti a questa organizzazione che parte a solda dei criminali, ma per creare appunto tensione in questo circolo rarefatto, questi prati inglesi, queste piscine, dove si annida appunto, dove c'è l'immaginario del potere forte. E la cosa curiosa è che questi erano film commerciali dediti alle grandi masse, che finivano nei cinema di seconda, terza visione, erano visti, quindi non erano filtrati da censura. Non c'era internet, la gente ancora non sapeva cosa fosse un complotto, la gente andava al cinema, i poteri forti non sapeva cosa fossero, eppure c'era un'intuizione come se ci fosse una catena di rimbalzi simile a quella che oggi, che permette qualsiasi analfabeta di avere uno smartphone in mano e fare degli scenari che presupporrebbero perlomeno un approfondimento capillare di settimane, minimo. Ma come hai detto spesse volte tu a questi microfoni quando facevamo le trasmissioni sul cinema, era il modo di informarsi della gente, se vuoi, c'era una sorta di approfondimento subspecie spettacolare creato da grandi attori, quindi con un'intensità emotiva che surriscaldava le informazioni, rendeva anche più intense, più chiare, e comunque arrivavano a tutti, a milioni di persone. C'era anche una lungimiranza di chi possedeva le fonti, probabilmente Steno, come tu hai detto, regista non conosciuto perlomeno per approfondimenti di questo tipo, aveva procurato una documentazione per cui sapeva che in giro si poteva dire, o si immaginava, o si pensava che potessero esistere delle suborganizzazioni negli apparati ufficiali dello Stato che operassero. Probabilmente qualche giornale ne parlava, allora c'erano le inchieste e via dicendo. E questa era trasformata in una vulgata, cioè in qualcosa che comunque trasferiva, esattamente come oggi quello che apre un sito e dice delle cose che sembrano verità straordinarie perché ha più tempo degli altri a perdere in internet. Questo era il meccanismo, o sbaglio? Era questo, e poi pensi che l'Italia oscillava in piena guerra fredda fra due blocchi, c'era un PC fortissimo, quindi i poteri si equilibravano, si poteva anche far uscire delle informazioni di questa portata. Ecco, ecco la hall del Parco dei Principi come si presentava dopo l'attentato. Uno spettacolo spaventoso. L'esplosione è stata violentissima. Fortunatamente le strutture delle volte hanno tenuto, altrimenti il numero delle vittime già elevato sarebbe stato maggiore. Delle 12 vittime, 8 sono di nazionalità straniera. I feriti sono tutti in gravi condizioni. Le indagini sono state assunte personalmente dal procuratore generale di Federico, che si è recato immediatamente sul posto. Nella capitale è stato convocato immediatamente il Consiglio dei Ministri. Un rappresentante del governo giungerà nella città così duramente colpita dall'odio dei nemici dello Stato nel primo pomeriggio. Telegrammi di cordoglio sono stati inviati da tutto il mondo. E figurati quando arrivano. I corpi delle 12 vittime sono stati allineati nel giardino dell'albergo. Scene di disperazione si ecco, sono... Ecco, anche qua ci sono delle spaventose, quanto interessanti similitudini. con quello che oggi galleggia nell'immaginario generale, che ancora non si attualizza perlomeno alle nostre latitudini, che già allora comunque una realtà non so se profetizzata, in questo caso un attentato in una riunione internazionale, mi sembra che è un convegno delle Nazioni Unite in cui c'erano delle nazioni straniere e ci sono dei morti, e ci sono comunque il sospetto che ci sia una grande trama che va oltre anche i nostri confini nazionali. Che film è in questo caso? Questo è La polizia alle mani legate del 75, e ci sono i protagonisti che guardano la televisione, guardano il telegiornale, e le immagini sono quelle di Piazza Fontana, della Banca dell'Agricoltura, dei morti, quindi interviene il frammento di cronaca, viene mescolato, certo poi qui i poteri forti sono molto più certo, sono operazioni molto ardite, loro prendono, oggi non sarebbe possibile, certo, degli spezzoni di telegiornale sulla strage di Piazza Fontana con morti veri e le traspongono in un attentato ipotetico, immaginato, in cui ci sono dei morti che non sono quelli. Sì, c'era una sfrenatezza, c'era una licenziosità a vario titolo, diciamo una grande libertà di maneggio anche del materiale documentale, sì, perché oggi non sarebbe possibile, oggi le vittime insorgerebbero se non usassero in un film le immagini di una strage reale per parlare di una strage fittizia, inesistente. Sì, il termine orrendo politicamente corretto non esisteva ancora, quindi nel bene e nel male tutto finiva in un calderone che però cortocircuitava e però lasciava anche emergere, perché rivedere quelle immagini 6 anni dopo, rivederle sempre in un cinema di genere, qui siamo di più basso livello della Polizia di Ingrazia, però rivederle aveva un'intensità, immaginatele sul grande schermo 6 anni dopo che le hai viste al telegiornale, è un rivivificare in un contesto come gli anni 70. Ma secondo te era una scelta di budget, gli conveniva mettere delle immagini vere piuttosto che ricostruire una strage, oppure una scelta voluta di colpire emotivamente con una spregiudicatezza che veramente è al limite della deontologia del materiale, non c'era la sacralità del documento. Oggi se io prendo una tua foto, la metto in internet e non sta bene, mi quereli come minimo. Allora prendendo delle foto di morti che facciano parte comunque di un'inchiesta probabilmente ancora aperta in quegli anni, mai chiusa, che ancora di più, diciamo, c'erano persone ancora indagate, oggi probabilmente nessuno più indagato, e le usavano per così come copertura di una storia di fiction. Non c'era la base, una mente autoriale, etica, c'era la ricerca dell'effettaccio, però in questo si lasciava, appunto, tornavano a galla dei fantasmi, erano vivi, non erano censurati, e questo aveva un suo senso, il segno anche libero era perturbante. Qui però ecco, già vediamo che esistevano comunque dei tracciati individuabili dal regista, che poi come fosse un cantastorie che andava in giro per le strade a raccontare le vicende del feroce Saladino, in questo caso le vicende che stanno accadendo, venivano riportate attraverso il cinema. Quindi c'erano i libri, i giornali d'inchiesta, le grandi inchieste, i giornalisti scomodi, i profeti comunque di realtà non ufficiali, e poi c'era il cinema, e tutto questo faceva un gran pastrocchio e lo mandava in giro per le sale. Però se pensi oggi, la cosa si è trasferita sui social network, sul complottismo generico anche di tante condivisioni che alludono a oscuri poteri forti, ecco, più o meno siamo in quell'area. Ecco, la cosa interessante sarebbe sapere, ma nessuno ne potrà dirlo se non attraverso memoria, qual era la percezione poi del medio utente del film che andava al pomeriggio con la sigaretta accesa, le noccioline, il cappotto sopra e le mani fra le cosce della fidanzata mentre guardava questi film. A tra un istante. Vuoi partecipare a una serata esclusiva in compagnia dei maestri del doppiaggio? Fino al 14 dicembre lascia il tuo provino alla voice box di Voice Anatomy al numero 828 1212. Se la tua voce sarà all'altezza dei più grandi, potrai essere tra i 3 fortunati a partecipare come pubblico al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio in programma a Roma giovedì 17 dicembre. E quindi, voce! Info su radio24.it. La Fed ha sorpreso i mercati con il rimando della exit strategy monetaria. Sembra intenzionato a ricoprire il gap ribassista apertosi a inizio ottava. I dati deludenti anche su questo fronte dovrebbero accelerare il processo di attuazione del quantitative easing della BCE. Quando si parla di economia hai il mal di testa? Prendi Focus Economia, ogni giorno l'appuntamento con l'attualità economica spiegata in modo chiaro, diretto, senza giri di parole e senza sconti per nessuno. Da assumersi tutti i giorni, lontano dai pasti. Focus Economia, di Sebastiano Barisoni, da lunedì a venerdì alle 17, solo su Radio 24. Melog. Cronache meridiane. Allora è tutta colpa di Voltaire. Sì, ma Voltaire aveva una scusante. Ai suoi tempi non ci si rendeva conto fino in fondo del pericolo di quell'idea, ma oggi, con l'avvento delle masse, il pericolo è diventato mortale. Se si continua così, la sola forma di giustizia sarà quella che i militari in guerra chiamano decimazione. Uccidere per punizione un soldato ogni 10. Niente, non esistono più individui oggi. Non esistono più responsabilità individuali oggi. Il suo mestiere, mio caro amico, è diventato ridicolo. Andava bene in tempo di pace, ma oggi siamo in guerra. Rapine, sequestri, uccisioni, sabotaggi, questa è guerra. E come in tempo di guerra, la risposta è decimazione. 1, 2, 3, 4, 5, fuori! 1, 2, 3, 4, 5, Kress, condannato. Giuseppe Sansonna. Giro con un calibro. Dove siamo in questa circostanza? E qui torniamo in un contesto iper autoriale, siamo sempre nello stesso clima, siamo in pieni anni 70, siamo nel 76 e Francesco Rosi fa Cadaveri eccellenti, no? Appunto qui si teorizza l'uso della violenza. Max von Sydow, che è il volto bergmaniano, austero della giustizia, della però una giustizia che impone il pugno di ferro, si rapporta a Lino Ventura, altro volto metafisico, che appunto qui rappresenta il bene, il solido e ruvido senso di giustizia, e parlano appunto della inutilità di Voltaire e della necessità, cioè del buon senso, della tolleranza e della necessità di che anno è questo film? Siamo in metà anni 70, 76. Anche un altro film profetico, parla di magistrati uccisi in Sicilia, di stragi di magistrati in Sicilia. Certo. Come vedi, c'hanno delle linee di attualità che percorrevano il cinema, percorsi che erano sghembi rispetto a quello che era la lettura ufficiale dei giornali, dell'informazione. Penso che un film del genere partiva da Sciascia, dal contesto, cioè Sciascia aveva una voce fortissima in quel periodo storico, quindi si cortocircuitavano film di genere con film autoriali che vivevano più o meno dello stesso clima, di certe atmosfere simili, e evocavano in maniera più o meno poetica, in maniera più o meno storica e attendibile, oscuri poteri forti o poteri invece molto chiari come quello. Senti, ma invece che qual è stata poi la deriva del poliziottesco? È un genere che abbiamo inventato noi, che Tarantino ancora ci si fa le pippe pensando al suo film poliziottesco, ma in realtà poi c'è stato un subgenere che ha straripato rispetto a questi due o tre esempi, che avevano dei fondamenti comunque realistici. Ci sono delle regole di mercato, la merce dopo un po' stanca, è una regola di mercato aurea, quindi dopo un po' si usura, quando poi tu la involgarisci, la inzeppi, o fai dei tentativi autoriali, quindi raffinati, che rinnovino, che parlino, affrontino il tema del linguaggio. Se tu invece usi semplicemente l'effettaccio, alla lunga tutto stanca e finisce in parodia. Tu sai bene il mio rapporto con Thomas Millian, il massimo della parodia del poliziottesco è diventato il punto quello. Più basso era Thomas Millian. Poverino, non tanto per colpa sua, però il Monnezza, certamente il commissario Giraldi, è stato appunto la farsaccia in cui lo schiaffo a bombolo riduce tutto il tema, tutti i grandi temi roventi del poliziottesco. Poi nasceva, diciamo, perlomeno con una pretesa alta di rappresentare il dibattito e il lacerante dualismo che c'era all'interno delle forze armate. Erano gli anni in cui c'erano i proletari in divisa che andavano imbavagliati a fare le manifestazioni, allo stesso tempo gli apparati forti dello Stato si preparavano a fronteggiare un non ben definito terrorismo all'interno del paese. E quindi il proposito era comunque di parlare di qualcosa che realmente c'era, era un problema che esisteva. Il proposito era alto perché gli sceneggiatori erano gli stessi dei film autoriali, spesso si intrecciavano, così come i direttori della fotografia, quindi le immagini, anche i pittori, che potevano passare da un film di genere a un film d'autore. Si era quasi obbligati dalla propria cultura e dalla propria storia a non dire troppe stupidaggini, a non involgarirsi troppo. Poi al giro degli anni Ottanta tutto questo, la patta si è slacciata definitivamente. E poi si arriva, diciamo, a le Giulia Verdi scatenate con le sirene, e con la soggettiva fatta col carrellino della sirena accesa in primo piano. Come dici sempre tu, Maurizio Merri, che fa karate con la mano tesa, insomma, che è il karate, quello sì. Un po' alla poveraccia, diciamo. Quello, sì, quello che si dà nei libretti che vendono alla stazione. Sì, o dell'intrepido, insomma. Guardi che quello che dovevamo fare è solo rimandato. Se non lo faremo noi, altri lo faranno. E allora si pentirà di averci fermato. Non credo che potrò mai pentirmene, perché sto difendendo la mia libertà insieme a quella degli altri. Lei è malato di falsa democrazia, commissario. Il vostro errore è che volete credere che tutti gli uomini siano uguali, mentre la realtà è ben diversa. È molto meglio credere che ci siano pochi uomini superiori capaci di guidare le masse più deboli. Ma è proprio contro questo che La democrazia fa scudo con la forza del numero. Non tutti gli uomini sono onesti, è vero, ma la maggioranza sì. Ed è per questo che deve poter scegliere liberamente tra il giusto e l'ingiusto, come fra il nero e il bianco. Solo che il giusto e l'ingiusto non si colorano politicamente. Ortega y Gasset sosteneva che il dirsi di destra o di sinistra è solo un modo per confermarsi imbecilli. Il giusto e l'ingiusto. Ecco, andiamo avanti, Giuseppe Sansonna, con il sottotraccia cinematografico di quello che in fondo rappresentava allora il punto focale delle paure degli italiani. Oggi le paure degli italiani sono, rispetto a un terrorismo internazionale di matrice islamica, sconosciuto e incappucciato. La cosa che mi sorprende è che oggi ancora non c'è nessuno che fa la stessa operazione. Questi film, bene o male, venivano girati quasi in contemporanea con l'avvenire degli eventi. Era come se fosse un docufilm girato mentre accadeva, usciva il film nelle sale, che ti dava la rappresentazione attraverso una fiction di quello che tu sentivi. È come se oggi uscisse un film a Natale invece che il solito film cinepanettone, che ci parla, non so, della paura degli attentati al Vaticano. Ecco, questo meccanismo oggi non è più possibile, e allora com'era possibile? Allora, tieni presente appunto che i docufilm che vediamo nelle trasmissioni d'inchiesta spesso sono penosi, no? Ma non per i motivi. Sono cialtronati in confronto, non esiste, capito? Ma non tanto per dei meriti vari, ma per semplicemente il cinema ha una potenza diversa. Tu entri in una sala, è uno schermo gigantesco, hai l'intensità degli attori, delle musiche, della pellicola, delle luci. Ecco. Anche la velleità in sé ha una sua forte e tragica poetica. Quindi vedere un film velleitario comunque ha un senso. Vedere una fiction per la televisione è una chiavica comunque. Certo. Questo era La polizia accusa e il servizio segreto uccide. Un autore come Sergio Martino, appunto, non certo un autore di serie A, non certo Francesco Rosi, però in questo film riesce a delineare in maniera netta, violentissima, con Thomas Meehan e Luc Merendà, quindi il grande Thomas, ma Luc Merendà, diciamo. Detto Luc Merendà. Tristemente, o felicemente che dir si voglia, e duettano citando Ortega y Gasset e delineando tutti i crismi teorici della strategia della tensione. Già il titolo, scusi, è un titolo: La polizia accusa, due punti, il servizio segreto uccide. Sì. Già tutto è un titolo che è una sintesi, è già il riassunto del film stesso, è una tesi. Esattamente, si evoca Gladio, si evoca il SID, di addestramenti in zone impervie. Però si evoca quando ancora non era ufficiale che esistessero, lo capisci? Certo. Che ancora è una vox. Certo, ma come ti dicevo prima, c'erano degli equilibri politici in Italia che permettevano lo sbilanciarsi, la possibilità di sbilanciarsi. Tante volte qui da questi microfoni abbiamo citato film come Todo Modo, impossibili. Todo Modo che esce in contemporanea con il monocratico regime democristiano, eppure fa un film in cui viene rappresentate le contraddizioni atroci fino all'omosessualità di un democristiano, cosa indicibile anche se molto presente nella Prima Repubblica, e c'è questa cosa che è terribile, no? Tutto il vedovile, tenebroso mondo democristiano, Sant'Ignazio di Loyola, la morte di Moro, cioè Moro che muore 2 anni prima della sua morte con reale, con un attore che era identico a Moro, sì, tra l'altro, che ha dovuto attenuare volontà perché era troppo identico a Moro. Quindi c'è il misto di orrore, di caricatura, di parodia, di grottesco, c'è Sciascia ancora una volta, ci sono degli intellettuali che fanno da ponte, da riferimento in quel periodo, e che possono permettere anche la nascita di questo tipo di cinema. Anche nella serie B, come La polizia accusa il servizio segreto uccide, si delineano delle cose di una verità e di una violenza sconcertante che arrivano a tanti milioni di persone. La cosa che mi sorprende è che in quegli anni c'era una fortissima censura cinematografica, basata quasi unicamente, soprattutto, sul vilipendio alla religione di Stato e la trasgressione sessuale, e passavano in queste maglie così strette dei film che in realtà erano delle bombe esplosive e dirompenti rispetto alla compattezza comunque dell'ufficialità di un regime. Fermiamoci un istante, poi rispondiamo anche a questa domanda. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta... Tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 17 su Radio 24, Oscar Giannino vi aspetta con la versione di Oscar. La versione di Oscar non in realtà non è il punto di vista di chi vi parla, è soprattutto la serie delle storie strane, singolari, che contraddistinguono la nostra vita di cittadini di fronte a uno Stato che molto spesso ci tratta da sudditi, la storia di come vanno le cose nell'economia e nella finanza italiana, la storia delle tante parti d'Italia in cui questa crisi per anni si faticherà in realtà a farla tornare a dei livelli di reddito, prodotto, investimenti, risultati necessari davvero a restituirci a quello che eravamo nel 2008. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì alle 16.30 alle 17 su Radio 24, la versione di Oscar. Non mancate! Melog. Cronache meridiane. Guardi che si assume una grave responsabilità. Lo so! Vuole una macchina della polizia qui davanti alla porta! Sta bene. Accettiamo le condizioni. Noi diamo la caccia ai delinquenti e la procura della caccia a noi. Ma abbiamo le mani legate. I delinquenti ci prendono per il sedere e i giornalisti ci inzuppano il pane. Noi vi diamo addosso quando spaccate la testa agli studenti o quando sparate sugli operai. C'era anche quello che era il problema della piazza. Operai, studenti, a volte assieme, a volte non assieme, studenti che rimanevano morti sul selciato, operai che rimanevano morti sul selciato, studenti che si ammazzano fra di loro, operai che comunque manifestavano. Nel generale reportage che fa il cinema degli anni difficili c'è anche questo film. In questo caso di cosa parlavamo? No, questo è sempre un film che abbiamo analizzato prima, che è La polizia ringrazia di Steno, sempre. E qui c'è una strepitosa Maria Angela Melato, che appunto era un'attrice che veniva da un mondo alto, entra in un cinema di genere e comunque evoca un problema storico molto forte, senza inibizioni, senza freni. Cioè, si parlava di violenze sugli studenti, si parlava della stampa, di come si rapportava la stampa alle violenze della polizia. Oggi temi tutto sommato piuttosto sugli scudi ancora, che vengono però relegati magari a semplicemente ai telegiornali. ACAB, il film di Sollima, in parte ha rievocato quel mondo, ha ritirato fuori quel mondo. Era talmente forte, talmente snobbato, adesso mi viene in mente una nota comica, in Fantozzi, per esempio, quando il grande cinefilo viene costretto a mettersi sui ceci dopo che li ha ammorbati con il cinema russo, e gli fanno vedere La polizia si incazza, che in fondo era semplicemente una rievocazione della Polizia ringrazia, che però vedi, nella percezione del tempo era considerato proprio un B-movie a tutti gli effetti, un B-movie che però dava piacere, si vedeva con piacere, nel senso, mentre la corazzata Potemkin era la pretestuosità radical chic del cinema russo che in realtà ammorbava, La polizia si incazza faccia parte dei film che si andavano a vedere facendo cacciare nelle ultime file con gli strilli, le urla e il coro degli amici. Il problema era come tutto veniva presentato, perché Eisenstein rimane un genio, il film non dura 8 ore, La corazza di Potemkin è un film archetipale del cinema straordinario, però anche La polizia ringrazia aveva il suo perché e soprattutto aveva della qualità, aveva le musiche appunto di Stelvio Cipriani che evocavano emotivamente, predisponevano a questo senso incombente di angoscia, di inquietudine, di poteri forti annidati dietro ogni angolo. Io so che ha ammazzato Cancetta. Che cos'è questa storia? Aveva scoperto il rifugio di Caligari e aveva scoperto chi lo protegge, un generale dei servizi di sicurezza. Ma perché non me ne hai parlato prima? Io ho avuto paura di fare la stessa fine. E adesso questa paura ti è passata? No, io sono sicuro che quelli... Vuoi dire quelli dei servizi di sicurezza? Loro sanno che io so. Cerca di aiutarmi, per piacere. Cerca di contattare quella gente. Fagli capire che io non parlo. E lo dici a me? Beh, sai, quando qualcuno sta per essere ammazzato, ti aiuterò. Ne parleremo. Qual era il contrasto in questo caso? Allora, qui siamo nel 1977, gli anni 70 stanno volgendo al termine, il film è Io ho paura. Per entrare nell'idonismo degli anni 80, sì, che fu tutt'altra cosa. Reganiano. Il film Io ho paura, regista Damiano Damiani, uno straordinario volontè che va ad espiare il personaggio dell'indagine su un cittadino a disordine di sospetto, ovvero il poliziotto granitico in brillantina Renetti e dopo barba da questura. Qui è imbolsito, e sono passati gli anni, è zoppicante, è un poliziotto kafkiano, alle prese con un labirinto, con un deve fare da scorta a giudici che muoiono, e finisce a parlare, a confessare le sue paure. Io ho paura, è la sua missione, all'interno di questo cinema porno, e parla con Mario Adorf, che è una figura appunto anche lui legata ai poteri forti. È sintomatico questo. un uomo cinema come Volonté finisce, sta finendo anche lui ha paura di finire, di uscire proprio dal cinema come, come attore, come corpo narrante di un cinema ma anche politico. I grandi cinema stanno diventando cinema porno per sopravvivere, le TV private distruggono il cinema. Anche perché Volonté come personaggio di poliziotto ha lasciato una traccia indelebile nel cinema italiano. Metafisica, appunto, alla Petri, legata a un contesto di definizione anche di certi archetipi iniziali del mondo repressivo, della crudeltà, del mondo kafkiano. Qui invece mostra tutta la sua cruda e spenta umanità. Ha paura, appunto, non riesce a penetrare la spessa coltre del contesto. Se vuoi, la condizione che viviamo oggi è anche quella, una condizione di paura, di nebulosità. Quella è costante, non sappiamo delineare. C'è il complottista che cerca di rintracciarlo, ognuno di noi, c'è il cinico, il disincantato che dice tanto è tutto uguale, però nessuno ha una traccia precisa di ciò che accade, anche a livello internazionale. Poi c'era una capacità a vari livelli di perizia e di maneggio tecnico dell'arte cinematografica di trasporre su un piano epico in contemporanea qualcosa faccia parte della cronaca. La nostra cronaca non diventa mai epica oggi, non so perché, anche con grandi film, anche con grandi titoli, anche con grandi campagne. Com'è la nostra cronaca non diventa epica? E allora c'era comunque perché l'epica è un fenomeno popolare, quindi loro c'è la capacità di portare nel dominio intermedio dell'epica popolare quello che era cronaca dei giornali. Oggi non c'è nessun tentativo di fare esattamente la stessa cosa. Oggi siamo tempestati, non dico una banalità, ma siamo tempestati di informazioni, non si ha il tempo di delineare, di far diventare epica, struttura epica, ciò che è narrazione anche della tragedia. Una tragedia va elaborata, Piazza Fontana rimane una ferita aperta, però il Bataclan, cioè Parigi, l'esplosione devastante e la quantità di morti, rimbalzare in 1000 monitor, quello rende tutto emotivo, ma allo stesso tempo già passato, già si necessita di nuove immagini forti che arrivano puntualmente e subito vengono rimosse perché sono troppe, difficili da elaborare. Ti dico la mia teoria, l'ho elaborata mentre tu parlavi. L'epica si sviluppa in una afonia e una carenza iconografica. Perché? Perché esiste Omero? Perché non sarebbe stata altra maniera che non la tradizione orale per ricordare qualcosa di cui non c'erano immagini se non ricordi verbali, di una grande guerra che è durata anni per una città che pare sia nata per una donna. Pensa cosa fantastica. In questi facendo un salto di secoli, parliamo di una possibile epica fatta attraverso il cinema di genere perché le immagini erano limitate, c'era il telegiornale, non esisteva il videoregistratore, l'immagine di Piazza Fontana te la vedevi al telegiornale, quando decideva comunque il giornalista che stava agli ordini del capo della Democrazia Cristiana di fartele vedere, poi basta, potete tenerti i ritagli di qualche giornale. Oggi le immagini le vediamo in maniera reiterata, costante, incessante, l'abbiamo nei nostri archivi, quindi non c'è epica nella esagerazione, nella bulimia iconografica. Forse è questo il motivo. Sono d'accordissimo. C'erano copertine, c'erano fermi immagini, c'erano fotogrammi. Il fotogramma evoca, come diceva Carmelo Bene, non si sa da dove parte, non si sa da dove va, ma un'intensità dell'attimo fermato, dell'attimo morto, degli occhi che ti guardano e della composizione iconografica che però permetteva una riflessione. Oggi questo è cancellato. Non ci sarà epica nemmeno per la radio, perché chiunque può ascoltarci in podcast, quindi scompariremo, saremo dissolti anche noi. Grazie Sansonna, alla prossima.